sai dove. Quel che sai è che non puoi più restare qui. Io ti voglio bene, cos'altro da fare nella tua ricerca della felicità? Mi dici che non sono io, ma sei solo tu. Mi chiedo allora perché io non ti basto più. Ma è inutile cercare una ragione, fa male nella tua ricerca della felicità. Perché? Ancora non so spiegare se mi fa bene che tu stia bene e non riesco a dimenticare che non c'è tu senza. Tu abbia tutto ciò che cercavi, un equilibrio, anche uno meglio di me. La pentola dove finisce l'arcobaleno nella tua ricerca della felicità. Perché ancora non so spiegare se mi fa bene che tu stia bene e non riesco a dimenticare che non c'è tu senza. Ciò che è fatto è fatto e io riparto ancora nella mia ricerca della felicità.